you're listening to Rock FM. Rock FM. E giungiamo finalmente alle soluzioni del test attitudinale di quest'oggi. Si parlava di un gran film, non famosissimo, ma sicuramente una chicca, ovvero un film recitato nel 1969 da Peter Sellers in compagnia di una celebre rockstar. L'ipotesi A prevedeva che il film si chiamasse Tengo una minchia tanta e che il rocker in questione era Frank Zappa. Se hanno risposto A, ahimè, hanno toppato. Soluzione aia, mi dispiace, soluzione sbagliata. Ed era allora forse la numero 2. La pellicola si chiamava Viva Las Vegas e il rocker era forse Elvis Presley? Ci dispiace, no, ma nemmeno questa era esatta. E allora The Magic Christian, la risposta numero 3 era quella giusta, e il rocker che recitava in il ruolo del figlio di Peter Sellers era Ringo Starr. Verissimo, se avete scelto questa terza opzione avete risposto giustamente. Tra l'altro il film, in parte demenziale, in parte raffinatissimo, come giustamente ha detto il DJ Ariel un attimo fa, si tratta di pellicola minore, ma non per questa priva di un certo valore. Lei si ricorda qualcosa? Ah sì, tra l'altro io vorrei citare una scena spassosissima, piena di ironia, di autoironia e di altro e di sferzate piscina. Comiche. C'è una piscina. La riempiamo di sterco. Sterco. E ci mettiamo tante, poiché siamo ricchi. Sì. Questa nella situazione di Peter Sellers e di Ringo Star nella pellicola in questione The Magic Christian, sì. Poiché siamo ricchi ci mettiamo tante sterline che tutti, perfino i compassati uomini d'affari, sì, in bombetta e completo scuro con l'ombrello, dapprima cautamente con la punta dell'ombrello afferrano queste carte moneta, e poi dopo si buttano senza più alcuna ritegno, alcuna vergogna, nella piscina per ramazzare su tutte queste sterline. Speriamo di avervi fatto una segnalazione interessante. La pellicola si intitola The Magic Christian, è del 69, c'è Peter Sellers e c'è Ringo Starr. Complimenti a tutti coloro che hanno individuato la soluzione giusta. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Beatles, The Hard Day's Night, per tributare allora la risposta esatta del nostro test attitudinale di quest'oggi, dove si parlava di Ringo Starr. Non so, avrete notato in questa Hard Day's Night, salva la canzone col campanaccio. Era che la svolta la canzone con quel campanaccio lì, secondo me è così. Un saluto al buon Ringo, nel caso ci stia ascoltando, Ringo Starr ovviamente, nella Liverpool che conta. 8 e 35 minuti primi, mercoledì 12 settembre, c'è sempre l'Ariele con la squadra di Pane, Burro e Rock'n'Roll, Roberto Friccantoni, Enrico Scarabatta tra in mezzo alla redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll, e intanto noi proseguiamo in questa ottava puntata, sempre un po' cupa la Milano dalla quale vi sto parlando. Vi attendiamo sempre al 335 100 7777, dove in tanti continuate a farvi sentire. Tra le buone idee proposte quest'oggi, un amico anonimo scrive: anche l'autoerotismo potrebbe essere una buona idea. Perché no? Sì, è vero, hai ragione. Ciao bellezze, scrive Cree, visto che il 6 ottobre c'è la grande festa di Rock FM, posso sperare in un brandello di patente da vera rocker? In alternativa una maglietta, tanto per diffondere il verbo. Cree, non farmi non farmi dire delle cose che non posso dire. Ci stiamo lavorando alacremente. Guardate che fare una patente da vero rocker un po' ci vuole. Lasciateci i nostri tempi, ma la faremo. Vuoi che io ti dica che il 6 ottobre ci sarà? Grosse probabilità. In realtà io la vorrei già per la settimana prima, ti dico solo questo, basta. Io proseguirei per far finta di niente e glissare nel vuoto con i Jethro Tull, The Sweet Dreams. Get out and get what you can. tutto potrebbe proseguire al meglio nella diretta mattutina di Rock FM se non leggessi la desolazione più sconfortante negli occhi conici di Roberto Fricantoni. Infatti. Lei ha una dolente nota. Quando si presenta così, lei ha una dolente nota. Si capisce, vero? Sì. Lo so, ogni medaglia ha il suo rovescio. Che dire, insomma, anche parlando del 12 settembre, noi non possiamo né dobbiamo omettere le tristi notizie. Non omettiamole. Chi morì il 12 di settembre? Dobbiamo rendere omaggio alla memoria di Johnny Cash. Grande. Grande Giovanni cantante. Soldo. Esatto, Giovanni Pilla, come mi diceva prima lei, DJ Ariel, o anche Giovanni Contante, si potrebbe tradurre anche come Giovanni Contante, abile cantante. Per svoltare la giornata, dopo aver ricordato la scomparsa di Johnny Cash, che era imprescindibile, passerei ai compleanni del giorno. Ma sì, raviviamo, raviviamo questa atmosfera con i compleanni del giorno, ricordandoci che il 12 settembre del 1913 Jesse Owens, velocista statunitense, vedeva la luce, veniva auguri al mondo. Auguri Jesse. Auguri famiglia Owens. Mentre nel 1944, personaggio a noi caro e vicino, nasceva il grande, il mastodontico e non solo metaforicamente parlando, Barry White, la voce più bassa della pop music. Incredibile, incredibile voce, così suadente, così accattivante. Barry White nasceva il 12 settembre del 1944. Ma non ci fermeremo qui, perché il 12 settembre del 1945, esatto, esattamente un anno dopo, nasceva un prodigioso disegnatore, autore di fumetti italiano, il grandissimo Milo Manara. E chiuderei con la soubrette da contratto, la showgirl italiana Elisabetta Canalis del 78. Esatto, giovane. Svegliamo il fatto che Elisabetta è nata il 12 settembre del 1978. L'abbiamo vista anche recentemente sui manifesti delle maggiori città italiane con un bellissimo davanzale in esposizione. Complimenti per il davanzale, e non solo Elisabetta, e complimenti alla famiglia Canalis. Complimenti vivissimi. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. fire. Johnny Cash, Ring of Fire. Guardalo lì il signore che scende il cane. Buona giornata anche a lei, Rock FM. Sì, va bene, non mi sente. Ciao a tutti, andiamo con l'ultimo quarto d'ora di direttina. Di direttina. Nel quale mi tufferei di nuovo a bomba sui vostri SMS. Mi piace quando da città differenti, in momenti differenti, arrivano commenti che più o meno però possono essere messi insieme. Nel reparto radioascoltatori e i dolori delle frequenze di Rock FM, che a volte fanno le bizze, essendo una radio rock, ve l'ho spiegato mille volte, è da contratto che a volte succede qualcosa a noi, se no non saremo rock, ok? Però mi piace molto lo staccanovismo di Fabio da Imola. Dice: ieri c'è stato un momento di blackout sulla vostra frequenza, non si sentiva nulla. Io per ripicca ho lasciato la frequenza accesa anche se non si sentiva niente. Secondo me si cantava anche lui le canzoni, tipo. Secondo me adesso metteranno. Se la cantava lui. E invece prima mi chiedevo se i pulmisti, che nella prima stagione di Pane, Burro e Rock'n'Roll abbondavano a mazzi, soprattutto qua a Milano, avevamo tranvieri di tutti i tipi. Ho lanciato l'appello, mi ha risposto solo Emiliano della Bus Real Rock, nella tratta Firenze-Viareggio, sentenza sempre presente anche quando non c'è il segnale. Vedi, anche lui, la fedeltà a Rock FM si sente anche quando Rock FM non si sente. È proprio nei momenti difficili che si vede quanto siete affezionati a noi. Va bene, svoltiamo pagina. A volte abbiamo il momento della air band, quella dove vi chiediamo di fare un po' di ginnastica facendo finta di suonare. Il brano che vi sto per mandare è da ginnastica, ma non facendo finta da suonare. Qua proprio bisogna fare ginnastica. Cioè, tipo, anche voi in tangenziale fermate, vi mettete le quattro frecce, scendete e si fa il balletto. Stevie Nicks, Edge of 17. Beh, ci vorrebbe anche la coreografia, però, ragazzi, in tangenziale. Claudia la sa fare. Sì, io e Claudia sapremmo farvela prossimamente su questi schermi. Yeah. È un viaggio nella musica, pane, burro e rock and roll. È un viaggio negli almanacchi, nelle date. È un viaggio nel surrealismo. E anche nelle stranezze. E anche nelle stranezze. Dice decisamente bene. La domanda che le faccio, secondo lei, fare l'attore può essere un lavoro pericoloso? Assolutamente no. E invece la redazione, eccola, di Pane, Burro e Rock'n'Roll la smentisce immediatamente con uno, accidenti, con uno strano ma vero da leccarsi i baffi. Mi renda edotto. Guardi, le do solo il titolo e già dovrebbe intuire. USA, Stati Uniti, attore si pugnala per errore. Ma che enormità, accidenti, sono basito, rimango senza parole. Andiamo a Washington, sospesa in Colorado una rappresentazione del mitico Giulio Cesare di William Shakespeare perché un attore si è pugnalato per errore. L'incidente è accaduto a Kent, Hudson Reed, nome che si presta benissimo ad un attore shakespeariano. Sì, un nome shakespeariano. Come fa, scusa, Kent? Guarda, ci riprovo, Kent Hudson Reed. Ah, perfetto. Che era tra l'altro anche il regista, per dimostrare quanto fosse intelligente. Durante una rappresentazione all'aperto, Reed, che interpretava Bruto, invece di pugnalare Cesare, ha pugnalato per errore se stesso agitando il coltello. Ha spiegato: mi sono pugnalato nella foga alla gamba, ho cercato di andare avanti ma il sangue non si fermava più e allora ho dovuto fermarmi per forza, altrimenti caschizza, sarebbe andato avanti. Della serie: io faccio finta di niente, spero che il pubblico non se ne accorga. Mi fa un male cane, ma spero tanto che non ci facciano caso. Che si è pugnalato lui, perché se pugnalava Giulio Cesare, questo qui tirava le cuoia. Ma chiedo scusa, ma sì, coltelli finti no, di plastica, pugnali di gomma, con no. Con un nome . Così, Ken Hudson Reed lo voleva de ferro. Esatto. E se l'è beccato nella gamba, complimenti. Kent. Complimenti, Kent. E del resto, insomma, il verismo a volte rende. Non so se in questo caso abbia davvero dato una mano. Punti di sutura, sicuramente. Rende molti punti di sutura. Certo, è di grande effetto, eh? Avrei pagato il biglietto per assistere ad una pugnalata autoinflitta in diretta. Avrei pagato. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. Chiusura migliore non ci sarebbe potuta essere. I Queen, 8 e 57 minuti primi. Questa, signore e signori, è la fine. È la fine della nostra trasmissione. E l'inizio invece probabilmente, anzi sicuramente, di una nuova giornata, di un nuovo splendido mercoledì 12 settembre. Sigla! Speriamo di risentirci domani dalle 7 alle 9 in rigorosa diretta qui da Rock FM. pane, burro e rock and roll. La trasmissione si chiamerà ancora così, sì. La tua colazione rock. Sarà sempre la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Con l'Ariele, Spadino, Fricantoni, la Mucca Camilla e Mister Trombetta. E very good. E tutti voi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Tracco, tracco. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E ogni giorno alla mattina cediamo il testimone a Marco Garavelli. Quest'oggi abbiamo 20 secondi. Ciao Marco, come li spendiamo? Ciao, buona giornata. Buona giornata, tutto bene, è andato abbastanza tutto posto. Da, da, da, da. Le mail non possiamo leggere, abbiamo esatto, solo 20 secondi, ancora meno. Però ciao, uno, ci vediamo. Uno lo metto, perché okay. c'è gente che sta combattendo per spargere la voce, per far alzare l'audience di Rock FM. È dura. Questo mi scrive: io tutte le volte che scendo dalla macchina parcheggiata lascio il volume a zero su Rock FM per darvi audience. Però non funziona così l'ascolti della radio, quindi no. Puoi spegnerla, anche perché rischi di scaricare poi le batterie della macchina, esatto. È un casino. Quella è la televisione ed è un'altra cosa. Noi vi spiegheremo poi come si farà, intanto voi ascoltateci e dite di ascoltare Rock FM, che fa sempre bene. Ciao Garavelli, buona ciao, giornata. Ciao. Non è che anche tu lasci la radio a zero? No, mi sa che l'hanno già portata via. No. Da oggi il rock lo ascolti su una sola radio. Oh, retrogradi! Da oggi pane, burro e rock and roll si ascolta da due radio. Sintonizzati su radiorockfm.com e troverai tutto l'archivio di pane, burro e rock and roll. Contemporaneamente accendi la tua radio dalle 7 alle 9 del mattino. Così potrai ascoltare due Arieli e due Fricantoni al prezzo di uno. Non posso resistere. Non è. Ah, sì, sì, ah, non mi posso trattenere. Non... Sì, ma scusa, così poi non si capisce niente. Beh, ma è terribilmente rock. Va bene. Pane, burro e rock and roll. E la tua colazione non finisce mai.